Parla Ipazia. Immagino che piova tra le querce e il mio amico, amante della sapienza, è andato via, portando con sé le mie parole, le mie verità e i risultati delle mie ricerche. Io so che un giorno ci incontreremo di nuovo e gli trasmetterà per altre vie questi miei pensieri, pensieri viventi, da me ricevuti, trasformati e rilanciati di nuovo nello spazio e nel tempo. Piove leggermente, come se una mano amorevole sfiorasse gli alberi, le pietre, i resti antichi del santuario dedicato a Zeus e il grande anfiteatro, ormai abbandonato dalle folle che lo gremivano in spettacoli frequentati da dei ed eroi. Ormai gli dei e le dee stanno abbandonando il mondo. Gli dei e le dee che possiedono bellezza e virtù nel più alto grado possibile. Come affermavano maestre e maestri antichi, esseri perfettamente semplici e veri sono le divinità. Vere sono le loro opere come le loro parole. E in sé esse non mutano e non ingannano altri, né con apparizioni, né con discorsi, né con l'invio di segni in veglia o in sogno. Distaccate dalle nostre vicende, per nulla bisognose di noi, non si commuovono ai nostri meriti né sono prese dall'ira. Occupazioni, pensieri, ire o benevolenze non sono conciliabili con chi possiede la beatitudine e l'immortalità. Gli esseri umani ignorano se l'anima già esista o si insinui nel corpo al momento della nascita, o perisca insieme alla morte del corpo, o approdi invece all'agua Cherusiade, e se dopo aver atteso colà, la sua individuale parte di tempo rinascerà in un altro essere vivo, oppure a causa dell'enormità del suo crimine verrà scagliata nel Tartaro da cui non evaderà più. Noi dobbiamo liberare gli esseri umani da queste incertezze, dai terrori verso un mondo ignoto, e questo avverrà tramite l'osservazione franca da pregiudizi della realtà della natura e l'enunciazione di leggi precise e verificabili da chi fa ricerca. Procedo con passo spedito verso gli spazi verdi, oltre il bosco di querce, come se un pubblico aspettasse me, Ipazia, figlia di Teone il matematico. La terra è piana sino alle montagne ed è vuota di genti, e in fondo è così che forse deve essere. Finora filosofi e filosofi non hanno mai parlato alle masse. La sapienza è stata sempre per i discepoli più stretti. Ma io dico che è ormai il tempo che i popoli tutti abbiano diritto alla conoscenza e a maggior coscienza. Il mondo deve essere un grande lago trasparente in cui tutti possano meravigliarsi delle profondità nascoste e consapevolmente entrare nell'acqua per conoscere, crescere e domandare a se stesse e a se stessi quale sia l'obiettivo da raggiungere. Donne e uomini hanno la possibilità di potere, volere e di conseguenza conquistare e vivere i propri livelli di conoscenza, ossia impossessarsi di una verità, piccola o immensa che sia, e diventare l'obiettivo. E l'obiettivo è come una grande madre che aspetta che la sua creatura cresca ed entri in contatto con lei. È la vera vita che attende, che vuole prendere l'essere umano, ma questi deve agire, deve compiere le azioni necessarie in quanto portatore, portatrice di precise responsabilità personali. E gli inevitabili ostacoli hanno una necessità, in quanto per il mezzo di essi l'individuo accresce la forza di lottare e andare avanti e produce coscienza, coscienza di essere uomo e donna e coscienza di essere divinità. Dapprima la grande pianura sembra deserta, ma la mia lucida follia popola lentamente i campi di una moltitudine di uomini e donne vestite nei modi più disparati, la più parte a me sconosciute, come se fossero in attesa di qualcuno a loro caro che narrasse una bella, vera e passionale storia. E a questa folla di ombre, di donne e uomini del presente, del passato e del futuro, che vogliono sollevare gli occhi alle regioni celesti e sfidare le religioni organizzate, realizzare il mondo nuovo e vivere come dei e dee tra gli uomini e le donne. Ho desiderio di parlare della materia e dello spazio. La maggior parte di coloro che per prime o primi si dedicarono allo studio della filosofia affermarono che ciò di cui gli esseri sono costituiti e che quello da cui hanno origine e in cui si estinguono è l'elemento e principio degli esseri, realtà che permane identica anche nelle trasformazioni. Infatti essi credono che nulla si crei e nulla si distrugga, ossia che esista una sostanza dalla quale provengono tutte le cose, mentre essa rimane immutata. L'evento ha una volontà che lo fa agire. Un tempo e uno spazio in cui deve avvenire, ed elementi di necessità a livello cosmico che determinano l'evento stesso. Tutto diviene o scorre, nulla è stabile, ma permane un'unica realtà o essere da cui provengono per trasformazione tutte le cose, l'essere o fuoco, espandendosi e creando spazi. Si trasforma in ammassi stellari e in materia oscura, in pianeti e lune, in terra, aria, acqua, ossia esprime innumerevoli possibilità che devono tutte realizzarsi. Non esiste l'impossibile e l'essere umano stesso deve realizzare i suoi destini, compiere delle scelte, accettare o non accettare coscientemente le situazioni, entrare nel processo evolutivo che noi sentiamo che deve avvenire. Il mondo dell'essere è il mondo di ciò che esiste sempre. Il mondo del divenire è il mondo di tutto ciò che avviene affinché ci sia una fisicità di ciò che è l'essere. La responsabilità dell'essere umano è entrare nella trasformazione, nella mente dell'essere, che è indifferente in quanto in esso tutto ciò che è probabile è possibile e in quanto possibile avverrà certamente. Contrasto, quindi, tra l'umanità, i pianeti e le stelle e ogni altra cosa in continuo mutamento, e l'ordine universale che sempre è, senza passato e senza futuro, fuoco sempre vivo che si accende e si spegne, conflitto è il padre di tutte le cose, di alcuni dei e di alcuni uomini. Di questi, i molti dormienti sono volti alla propria privata saggezza. I pochi desti al cosmo unico e comune. Democrito e Leucippo svilupparono una scienza del moto in contrasto con una rappresentazione di tipo statico. Essi elaborarono una teoria in armonia con le percezioni. Questa teoria cinetica o del movimento porta alla scoperta di principi che è possibile dimostrare con esperienze, ma di cui dobbiamo essere persuasi prima di tutto dalla ragione. In base a tale teoria cinetica o del movimento, gli atomi hanno molteplici forme e grandezze, e formati della medesima sostanza racchiudono differenti quantità di materia, e si muovono nel vuoto, all'infinito, in tutte le direzioni. Non vi è né alto, né basso, né centro. Inoltre non vi è ragione per cui un atomo in movimento debba fermarsi in un luogo piuttosto che un altro, perciò o resterà in riposo o si muoverà all'infinito a meno che non sia impedito da un ostacolo. Ovvero possiamo affermare che ogni corpo che si muove nel vuoto conserva illimitatamente la sua velocità e la sua direzione, oppure persevera nella sua condizione di quiete, a meno che ostacoli o forze esterne non agiscano su di esso, urtandolo. Inoltre noi possiamo dire che un ostacolo o forza esterna cambiano lo stato di riposo o di movimento, e che essi consistono in un'azione e che permangono nel corpo fino al cessare dell'azione stessa. Possiamo verificare tale variazione del moto lasciando cadere dall'alto, indi lanciando verso l'alto un corpo qualsiasi. Nel primo caso la velocità aumenta durante la caduta, agisce una causa di accelerazione. Nel secondo la velocità diminuisce fino al punto più alto. Ma Le affermazioni scientifiche sono sempre incerte e il dubbio deve essere la nostra strada maestra. Non esistono dogmi, ma esiste la nostra libertà di pensiero, che permette di formulare nuove leggi che superano le preesistenti in un gioco appassionante e senza fine. Noi siamo figlie e figli dell'universo, ma non riusciamo ancora ad afferrare completamente le sue leggi. Il cosmo profondamente sa che non deve terminare, che deve espandersi, che deve accumulare esperienze e le esperienze hanno bisogno di noi per esprimersi. Per il mezzo della nostra mente, del nostro corpo e della nostra responsabilità con il dimenticare il precedente e sperimentare il nuovo con emozione. La creatura umana nasce quando l'esperienza della sua nascita è importante per l'universo. Non esiste il Dio della creazione. Esiste la necessità di trasformare il qualcosa che è sempre stato. La trasformazione è entrare nell'azione, nelle cose della vita, fermare il tempo, non essere più legati al passato perché tutte le situazioni sono ormai state portate a compimento. L'universo genera se stesso continuamente, non conosce la morte e all'essere umano dà un messaggio di vita perché anche l'essere umano può generare se stesso. La forza cosmica è dentro di noi e se non siamo consapevoli di questo, noi siamo responsabili di qualcosa che termina la nostra vita. Dobbiamo apprendere da maestri e maestre a sviluppare le nostre potenzialità, ampliare le conoscenze e con la ragione investigare tutto il possibile e superare noi stesse e noi stessi e entrare nella visione e agire. E da noi deve nascere una nuova specie, l'essere umano che non conosce la malattia e la morte. Vivere con sofferenza e morire non è buono o cattivo, giusto o sbagliato o inevitabile, come ripetono in modo incessante sovrani e sacerdoti. È soltanto semplicemente inutile. È andare contro la creazione di nuova materia, di nuovi spazi, è ostacolare l'aumento del numero incalcolabile delle stelle e delle galassie della volta celeste. Noi dobbiamo vivere, ovvero amare, gioire, soffrire, apprendere, aggiungere nuove conoscenze sul mondo sensibile e non. E tutto deve partire da noi, dal nostro corpo, dalla nostra ragione, dalla nostra consapevolezza. E fatto tutto ciò, esaurite tutte le possibili ripetizioni, perché tutti gli avvenimenti che noi viviamo in tutte le vite passate, presenti e future non sono altro che ripetizioni. Io dico ad uno scienziato del mio passato e del mio futuro, ad una musicista che vivrà in un tempo lontano, ad un pittore o una pittrice che io vedo dipingere al lume di lucerna bellissime figure sulle mura e sugli alti soffitti di grandi edifici, e curare anche quei minimi dettagli che nessuno di coloro che ammirerai dipinti dal basso potrà mai vedere. Opera d'arte dedicata allo spirito, agli innumerevoli uomini e donne che adempiono nella loro semplicità alle faccende della vita quotidiana, io dico, prendete possesso di tutte le tecniche per eseguire al meglio la vostra attività, qualunque essa sia. Non delegate lo studio e l'interpretazione della natura ad altri, sia pure più degni. Sviluppate le vostre intelligenze. Non rinunciate e vivete al massimo tutto quello che dovete fare ed è necessario fare. E poi dimenticate. In quel momento, in quello spazio, voi generate altre e altre voi stessi. Sono di nuovo nel Serapeo. Sul tavolo sono ancora aperti i rotoli sui quali stavo studiando le scienze del moto. Sono stanca, ma stranamente felice. È come se qualcuno mi avesse sussurrato dolcemente che la mia vita è importante in questo momento. Ma il mio corpo ha ora necessità di nuove forze, di un contatto fisico profondo con quanto è intorno a me. Non solo cibo e bevande, bagni caldi e massaggi nelle terme. Voglio andare al faro, voglio vedere il mare e gustare i suoi spazi, sentire le terre al di là delle sue acque e afferrare con le mie labbra il salmastro dei suoi baci.